soli sulla strada, soli sulla luna, ogni panchina è la loro casa, ogni stella in cielo un ricordo d'amore. Gli altri che non sanno, gli altri che non ricordano, gli altri non capiscono, non capiscono e non sorridono. E voi, voi amatevi davanti a tutto il mondo, perché state tranquilli che siete voi, voi gli unici padroni, padroni. Davanti a tutto il mondo, perché state tranquilli che siete voi, voi gli unici padroni.